6. Ascolta e controlla. 1. Oggi Nicoletta non è occupata. 2. Lui è alto. 3. Giada e Alberto sono famosi. 4. Paola, sei tranquilla? No, non sono tranquilla.